Italia in controluce. In conduzione Daniele Biacchesi per questa nuova puntata di Italia in controluce nel pomeriggio del 25 ottobre 2011, un anno fa circa, una perturbazione iniziava a concentrarsi proprio sulla zona nord delle province della Spezia, di Massa e Carrara. Nel giro di pochissime ore cade un'enorme quantità d'acqua piovana e in poco tempo i torrenti affluenti dei principali fiumi diventano incontrollabili, esondano, portano a valle ogni sorta di detriti. I paesi delle Cinque Terre, gioielli della Liguria, vengono spazzati via in pochi minuti. Che cosa è stato fatto ad un anno dall'alluvione? Come si sono spesi i fondi? Chi ha gestito la ricostruzione? E queste sono le domande che ci facciamo. E dunque invece quella che vogliamo fare a voi al 349-238-6666, se un anno dopo l'alluvione delle Cinque Terre nessuno ha pagato per le responsabilità, secondo voi era prevedibile questa alluvione delle Cinque Terre come tutte le altre alluvioni? Perché si attendono le disgrazie per poi intervenire? 349-238-6666, io mi collego subito con le Cinque Terre dove c'è per noi Raffaella Calanda. Buongiorno Raffaella. Ciao Daniele, buongiorno. Oggi qui a Monterosso cioè, splende il sole, c'è anche chi fa il bagno a mare. Qui a Monterosso, proprio in quelle stesse spiagge che un anno fa raccolsero invece tutto ciò che il fango aveva trascinato via, la terra, pezzi di case e di vite, come quella del volontario della protezione civile Sandro Usai, una delle 12 vittime di quell'alluvione che colpì tutto lo Spezzino e la Lunigiana. Proprio un anno fa da questa stessa spiazza dove mi trovo ora, vicino al comune, facemmo una diretta con Italia in Controluce tra colline di terra e di distruzione. Ora invece qui a Monterosso i segni di quel fango sono nei cumuli di terra ai lati delle strade, sono ad esempio nell'umido rimasto sulle incrostazioni della chiesa di San Giovanni, sono nelle impalcature, ma sono soprattutto nella paura della gente che ci ha detto di avere ogni volta timore che si possa ripetere quello che è successo l'anno scorso, perché ad ogni pioggia. Perché infatti lo stesso sindaco che poi ascolteremo ci ha detto che ci sono ancora 60 frane ancora aperte e invece dei 40 milioni di danni calcolati soltanto 2 milioni di euro sono stati ricevuti. E il punto centrale resta dunque la manutenzione del terreno che è alle spalle di Monterosso, e proprio per questo noi abbiamo qui con noi un coltivatore di Monterosso che è Sebastiano Catani, a cui io chiedo subito qual è la condizione in questo momento dei muretti a secco, sono conservati o sono in abbandono? Buongiorno. Diciamo che insomma in parte sono stati recuperati quelli che sono nei terreni che sono coltivati, però in quelli che si trovano nei terreni abbandonati sono all'abbandono. Che percentuale? È una percentuale diciamo di un 30% di terreni coltivati, il resto è all'abbandono. Dunque una cifra che ci deve far riflettere, 30% di terreni coltivati con i famosi muretti a secco, il resto in abbandono, ed è proprio lì che secondo le stesse la stessa amministrazione che oggi insieme ai sindaci di Vernazza e degli altri comuni sono di nuovo in regione per fare un punto della situazione, degli interventi che ancora mancano, ed è lì il punto iniziale proprio di quella per risolvere a monte la sicurezza di queste zone, perché è da lì che le frane poi si sono partite nella loro violenza. Daniele. Grazie a Raffaella Calanda per la tua testimonianza in diretta dalle Cinque Terre. Ai nostri ascoltatori abbiamo chiesto se è prevedibile un'alluvione come quella avvenuta alle Cinque Terre e per tutte le altre alluvioni. Questione di manutenzione, chi la deve fare? Perché si attende una disgrazia per intervenire? C'è un nostro ascoltatore, Corrado da Como, che dice che si attendono i disastri, così poi nel caos politici locali e nazionali per loro è più facile rubare. Queste sono le opinioni di Corrado da Como. Qualunque alluvione può essere affrontata con adeguata prevenzione sul territorio, ma nulla si fa, poco nulla si fa, dice Diego, che ha fatto il 349-238-6666. Ma allora ripartiamo richiamando alla memoria quello che fu l'alluvione delle Cinque Terre. Ho fatto per scendere dalla macchina per togliere i sassi per poter passare, a un certo punto dalla collina è venuto giù tutto questo blocco di terra, fango, sassi, che mi si è proprio parato di fianco alla macchina. I screamed to my sister, "Oh my God, there's cars floating like in a river." È venuto giù il finimondo. Abbiamo ancora 60 frane aperte, ma dei fondi promessi abbiamo avuto solo il 10% e non possiamo continuare a vivere nella paura. Lo dice il sindaco di Monterosso, Angelo Betta, che oggi, insieme anche al primo cittadino di Vernazza, è in regione Liguria, a Genova, per una nuova riunione. Sentiamo la sua testimonianza sempre al microfono di Raffaella Calanda. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, ma io attualmente a Monterosso ho ancora un numero minimo di 60 frane ancora aperte. Se non mi danno dei fondi, i fondi quantomeno promessi, non riesco a metterla a posto, ma non ce la fa Monterosso, non ce la fa Vernazza, non ce la fa Borghetto, non ce la fanno tutti quanti gli altri, perché il problema è sempre lo stesso. 60 frane ancora aperte, quindi vorrebbero dire 60 punti fragili del comune, 60 punti... No, ma di più le dico, perché per esempio quello che è successo il 25 ottobre, no, di un terreno integro che è franato. Adesso, se piovesse tanto come il 25 ottobre, chi ce lo garantisce che altre zone attualmente integre come l'anno scorso adesso non franino? Quindi è come se adesso il rischio fosse aumentato rispetto all'anno scorso? Il rischio è aumentato. Adesso siamo fragili come il 24 di ottobre, perché le frane sono ancora accese, aperte. Per mettere in sicurezza queste frane, di quanti soldi avreste bisogno e che cosa materialmente dovreste fare? Noi abbiamo chiesto alla Regione Liguria di confrontarci. Io ho uno staff di geologi, di ingegneri strutturisti che hanno valutato il danno alla parte pubblica, quindi territorio, infrastrutture e quant'altro, per circa 40 milioni di euro. Quindi voi chiedete alla Regione 38 milioni, visto che due ne avete già avuti? Sì, esatto. A suo tempo, col governo ancora Berlusconi, hanno stanziato questi 80 milioni di euro che poi sono andati spesi in emergenza. Ne è rimasta una certa quota. Sono stati promessi ai comuni, nel caso di Monterosso, 3 milioni e 300 mila euro. Cioè di quegli 80 milioni stanziati dal governo Berlusconi, nel concreto voi come comune di Monterosso avete avuto soltanto questi 2 milioni, giusto? 2 milioni. Quindi adesso ne avreste bisogno, almeno voi come Monterosso, di altri 38 per poter, certo, in qualche modo far fronte quantomeno ai danni e mettere in sicurezza le frane aperte. Se questi fondi non arrivano, qualche lavoro in parte non si può fare. Purtroppo è un anno che ci stiamo palleggiando con la Regione Liguria, avanti e indietro, incontri e incontri e rincontri, dove ancora oggi non abbiamo capito chi paga le emergenze ancora da pagare e chi paga le somme urgenze con quali soldi. Perché anche la Comunità Europea ha dato a questa alluvione del 25 ottobre 12 milioni di euro, no? E la Regione deve ancora dividere questi soldi. Noi abbiamo bisogno di avere una risposta certa. Certo, anche perché appunto fino adesso la stagione è stata abbastanza buona, ma andando, certo, verso l'inverno, verso le piogge, ecco, ad ogni temporale forte come si vive? Come una settimana fa, quando ha messo questa allerta, io stesso con i miei della Protezione Civile abbiamo passato la notte nel Palazzo Comunale per capire se c'erano dei problemi, di intervenire subito. Non si può neanche più vivere in questo modo qua, secondo me. Quando noi abbiamo chiesto il giusto, e ci è stato dato il 10%. Si sono un po' dimenticati di voi. Noi siamo scoraggiati. Quando vediamo che poi all'Emilia Romagna vengono dati, che sono comunque pochi, 700 milioni, io non penso che ci sia un fondo in Europa dove 700 milioni sono il 2,5%. Quindi vuol dire che si è usato un metro e una misura diversa. Adesso, quindi lei dice che dovevamo avere lo stesso trattamento che hanno avuto i comuni terremotati dell'Emilia. Assolutamente. Questa è la denuncia del sindaco di Monterosso, Cinque Terre, Angelo Betta, al microfono della nostra inviata alle Cinque Terre, Raffaella Calanda. Abbiamo chiesto un parere a voi e ai nostri ascoltatori abituali. Un anno dopo l'alluvione delle Cinque Terre, se era prevedibile questa alluvione, se sono prevedibili tutte le alluvioni, perché si attende la disgrazia per intervenire. Roberto ci scrive: a cosa servono le regioni se non sono neppure in grado di reperire le risorse europee, che sicuramente sono disponibili. In Italia tutto ruota sulle edilizie, i piani regolatori prevedono incrementi di volumi, il territorio in sofferenza, non si cura la prevenzione, dice Antonio. È tutto per oggi, ci risentiamo domani. Vi ricordo Facebook Italia in Controluce, il gruppo, la pagina Twitter e Controluce @radio24.it.